Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea di Radio 24. Buongiorno da Giulia Crivelli. Oggi, come nelle scorse due settimane, partiamo dall'Economist, che in realtà appunto negli ultimi mesi avevamo un po' trascurato. Poi c'è stata la famosa copertina con Renzi sulla barchetta che ha riportato l'Economist sulla bocca di tutti, però in realtà appunto non è giusto guardare sempre l'Economist, che ha delle analisi sempre interessanti. La copertina è dedicata alla Cina in realtà questa volta e al suo presidente, perché noi facciamo ancora forse fatica ad abituarci a questa idea che in realtà la Cina è ancora nominalmente un grande paese comunista e che quindi ha sostanzialmente un dittatore, avremmo detto in altri tempi. E quindi il titolo dell'Economist è l'uomo che deve, a cui bisogna obbedire, e come un uomo sia alla guida della Cina. E la fotografia è come se fossero tante persone che però hanno o la maschera o la faccia di Xi, perché lui è il capo. C'è naturalmente un'analisi, perché la Cina, anche se ha rallentato come economia, resta per l'Unione Europea, per gli Stati Uniti, il grande interlocutore economico e non solo. E quindi insomma, con i cambiamenti della Cina o con lo status quo della Cina, che appunto a volte noi facciamo un po' fatica a ricordare, dobbiamo comunque fare i conti con le loro regole, con la loro rigidità sulla moneta, che ha causato tanti guai anche all'euro. Perciò l'analisi dell'Economist, la copertina è questa. Poi all'interno c'è un approfondimento sulla questione tra Ucraina e Russia, che è lungi dall'essere risolta, e poi anche un approfondimento sulla politica italiana, con un'analisi molto lucida sul fatto che Renzi ha dovuto proprio fare quello che in anglosassone, nei giornali anglosassoni, viene spesso definito un reality check. Quindi molte gli vengono riconosciute le ambizioni di cambiare l'Italia, anche la volontà, l'energia, ma poi naturalmente deve fare i conti con tutto quello che sta succedendo. L'Economist è in edicola venerdì, poi non gli si può neanche chiedere di capire veramente la farraginosità di quello che succede nella politica italiana, però sicuramente non ne parla. Però pensate insomma agli ostacoli che sta incontrando Renzi soltanto per risolvere il problema della Consulta e del CSM. Quindi sicuramente appunto Renzi avrà bisogno ancora di tanta di quell'energia che ha mostrato fino adesso. Passiamo a un altro argomento di cui ci eravamo occupati la settimana scorsa, che erano le elezioni in Svezia. Abbiamo detto che c'erano queste elezioni che erano state un po' offuscate dal referendum scozzese, che è stato in realtà giovedì, di cui parleremo brevemente perché sono pieni i giornali di oggi, quindi non c'è bisogno che ne parliamo anche noi, toccheremo brevemente l'argomento. Ma queste erano appunto le altre elezioni, quella della Svezia. La previsione di tutti era quella che il governo di centrodestra avrebbe perso, e così è stato. C'è stato questo successo dei democratici di Svezia, e però mentre tradizionalmente, spiega il Dagens Nyheter di Svezia in un articolo tradotto da Internazionale che trovate in edicola da ieri, e tra l'altro la copertina Internazionale invece è dedicata all'altra grande emergenza, che è Ebola, ma in questo articolo si spiega anche che mentre tradizionalmente i partiti di centrosinistra erano in generale più europeisti, qui la situazione è molto più complicata, perché anche in Svezia c'è stata una grande affermazione dei Verdi prima di tutto, ma anche di tutte le persone che sono o euroscettiche o addirittura xenofobe, cioè quei partiti di destra che poi hanno questa connotazione molto spesso in Europa xenofoba, tant'è che l'articolo si intitola appunto l'estrema destra xenofoba che seduce gli svedesi. È un avvertimento anche a tenere sempre alta la guardia, perché sono partiti che ancora minoritari, certo, che però segnalano prima di tutto un malessere profondo, anche perché spesso riescono ad avere anche un elettorato molto giovane, quindi forse questo è ancora più impressionante, e poi soprattutto appunto spesso poi sono anche euroscettici. Sulla questione tra l'Ucraina e Russia è interessante anche un editoriale apparso sulla Süddeutsche Zeitung, anche questo riportato da Internazionale, che sostanzialmente dice l'Ucraina ha ceduto alla Russia, e d'altro canto se si guardano i pesi in campo, come poteva l'Ucraina, che tutto sommato si ha ottenuto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti delle sanzioni, ma non molto altro, come poteva davvero tener testa alla Russia di Putin. E quindi, scrive la Süddeutsche Zeitung, sono in tanti a sentirsi traditi, chi si era battuto in piazza, chi ha perso il marito o i figli in guerra e chi sperava una democrazia vera e propria. Quindi anche appunto una velata critica all'Unione Europea, che tra l'altro sembra aver ottenuto veramente poco, perché le tensioni con la Russia, per via dell'essersi allineati alle posizioni americane sulla questione delle sanzioni economiche, hanno appunto ulteriormente complicato i rapporti con Putin, e d'altro canto anche quelli con l'Ucraina stessa, con i vertici attuali dell'Ucraina, non sono migliorati, perché per certi versi gli ucraini e alcuni suoi politici si sono sentiti traditi. Ricordo che tutta questa questione vede il ruolo dell'Unione Europea quasi come scatenante, perché è stato proprio il desiderio espresso dall'Ucraina di avvicinarsi all'Unione Europea piuttosto che alla grande Russia a scatenare poi tutto quello che è successo. Quindi un monito anche qui all'Unione Europea ad avere una politica estera, se non altro un pochino più autonoma. Adesso vedremo con il nuovo alto commissario, che è l'italiana Federica Mogherini, se riusciremo finalmente ad avere una nostra fisionomia nelle scelte di politica estera, nostra intendo come dell'Unione Europea. Passiamo a argomenti un pochino più economici. La Berliner Zeitung, che è un quotidiano di Berlino, ha ospitato un intervento proprio di Benoît Cœuré, che è un membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, e tramite appunto questo membro del comitato esecutivo, la BCE sostanzialmente ha sollecitato il governo tedesco, su appunto tramite la Berliner Zeitung, a una riduzione delle tasse in Germania, perché come molti economisti sostengono, anche se poi ci sono anche quelli che sostengono che non sempre succeda, ridurre le tasse aiuta a ravvivare l'economia. La Germania potrebbe usare il suo spazio di manovra per promuovere investimenti e ridurre il peso fiscale sui lavoratori, ha spiegato Cœuré. Questo non metterebbe a rischio la sostenibilità delle finanze statali e aiuterebbe il paese a essere in forma per le sfide future. La BCE non può risolvere i problemi dell'eurozona da sola. La proposta per superare la crisi è una strategia basata su tre pilastri: politica monetaria, politica di bilancio e politica economica, con riforme strutturali. E come sappiamo sono sempre un po', come potremmo dire, insiemi concentrici. Ci sono delle aree dove questi interventi sono possibili o possono essere fatti sia dalla BCE che dai governi locali. Alcune cose possono essere fatte solo dalla BCE, i tanti annunci che abbiamo sentito da parte di Draghi, però insomma ci vuole anche qui probabilmente un coordinamento maggiore e forse un impegno, lo auspicano in tanti, da parte della Germania, che invece è un po' come se non volesse più mettere del suo per accelerare la sua locomotiva e così portarsi dietro tutta l'Unione Europea. A proposito di BCE e di Draghi, è il Financial Times che, commentando i dati che sono usciti questa settimana sui cosiddetti finanziamenti agevolati a lungo termine, i TLTRO, dice a blow to Draghi, cioè una delusione, un duro colpo alle ambizioni del presidente della BCE, perché aveva appunto aveva introdotto questo strumento per aiutare la famosa malandata economia Unione Europea. E questo è un commento del Financial Times, perché la BCE ha erogato 82,6 miliardi di euro, persino meno delle previsioni più basse, tra quelle molto differenziate che erano circolate nei giorni prima del dato ufficiale. Secondo Financial Times è un ammontare che assesta un duro colpo alle ambizioni di Draghi di sostenere l'economia dell'eurozona e espandendo il bilancio della banca centrale. Forse anche qui dovremmo capire che sotto la presidenza di Draghi la BCE appunto sta un po' cambiando il suo ruolo, Draghi sta cercando di dare alla BCE un ruolo più forte, non sempre ci riesce, ma forse tentativo dopo tentativo. Io insomma cerco ancora di dargli molta fiducia, perché mi sembra persona seria che comunque con le sue proposte, magari non sempre ben accolte, però si sta molto impegnando. Cambiamo ancora un altro argomento, ma questo è veramente un articolo lungo, documentato e che sicuramente dovrebbe non farci sentire in colpa necessariamente, ma farci riflettere. Apparso sul New York Times, il titolo è Assassinio nel Mediterraneo, e il tema naturalmente è quello dei migranti che muoiono cercando di venire qui. E quello che dice Financial Times è che la comunità internazionale, e specialmente l'Europa, dovrebbe impegnarsi in un'azione collettiva prima che altri rifugiati muoiano, perché è chiaro che ogni volta che vengono diffusi quei dati su quanti cadaveri ci sono in fondo al Mediterraneo, o comunque bastano le foto in realtà dei barconi, ne abbiamo viste anche questa settimana, dei barconi affondati, dall'estero fa effetto. Non che l'America sia immacolata, abbia la fedina immacolata sulla questione dell'immigrazione e dei migranti, pensiamo a quello che succede ai confini con il Messico, però il New York Times è un giornale, i suoi giornalisti fanno il loro lavoro. La Commissione Europea, l'ultima cosa che vi dico, ha annunciato appunto che questo piano, che cioè Frontex che sostituisce Mare Nostrum, è tutto da vedere se funzionerà meglio. Era l'ultima segnalazione che ho il tempo di farvi, ma appunto consultate, ci sono tanti siti, presseurope.eu o comunque anche sui quotidiani, ormai ci sono un pochino più di notizie europee. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.